Signore e signori, bentornate, bentornati ad Aspettando l'Eurovision Song Contest 2021, 39 canzoni in rappresentanza di 39 nazioni che si sfidano in quel di Rotterdam per conquistare il microfono di cristallo nella finale del 22 maggio, le semifinali che noi stiamo attraversando giorno dopo giorno andranno in onda il 18 e il 20 maggio. E attenzione, sono già cominciate le prove alla Ahoy Arena di Rotterdam che culmineranno appunto nei tre show televisivi davanti, pensate, a 3.500 spettatori, il 20% della capienza complessiva dell'arena. L'Olanda riparte e oggi è il turno della canzone numero 15 e 16 della seconda semifinale, Svizzera, ma prima la Lettonia. The queen of the night is coming. The blood moon is rising. When I'm walking like this with an attitude, you should know that I'm coming after you. You can run, you can hide, but you're mesmerized. In your mind, I'm already idolized. Playing dirty, not my case. Giving up hopes, not my case. Being envious, not my case. You got something to say, say to my face. The queen of the night is coming. The blood moon is rising. Get ready for a... Lei si chiama Samantha Tina, la canzone ha titolo The Moon is Rising, la luna sta sorgendo. Questa luna rossa, The Blood Moon. Questa regina, questo corteo surreale, un po' onirico, che ci presenta Samantha Tina, ha provato 6 volte, pensate, a fare l'Eurovision, 4 volte nel suo paese, la Lettonia, 2 volte in Lituania, la 6ª volta ce l'ha fatta, le hanno cancellato l'Eurovision. La televisione lettone però l'ha confermata e parteciperà appunto con questa The Moon is Rising alla 2ª semifinale. I bookmaker non la danno particolarmente favorita per passare il turno, ma chissà che Samantha Tina, nata il 31 marzo del 1989 a Tukums in Lettonia, ci possa fare una sorpresa. Lei ha una buona carriera alle spalle, ma senza successi di rilievo. La canzone porta la firma della stessa artista Samantha Tina e di Aminata Savadoglu, colei che è 2ª per le giurie e 6ª nella classifica complessiva, rappresenta uno dei migliori risultati recenti della Lettonia, l'ultima top 10 del paese nel 2015. Il risultato della Lettonia è il 1º posto a Tallinn nel 2002 e alla 21ª partecipazione non raggiunge la finale da Stoccolma 2016. Noi non crediamo che possa interrompere il digiuno, ma vedremo cosa farà Samantha Tina con The Moon is Rising. Costruite tra il 1982 e il 1984, le case cubiche di Piet Blom sono un parco residenziale e allo stesso tempo una delle attrazioni turistiche più visitate della città di Rotterdam. Un complesso architettonico simile si trova a Helmond, nel Brabante settentrionale, ma oltre che nei Paesi Bassi è possibile imbattersi nelle case cubiche solamente a Toronto in Canada, poiché un architetto di Ottawa, innamoratosi del progetto, decise di investire una parte dei proventi della sua azienda per acquistarne la planimetria. Ogni abitazione si sviluppa su 3 livelli, il piano notte si trova al 2º. Non sono tuttavia delle soluzioni proponibili a persone particolarmente alte, poiché in alcuni punti le case non superano il 1,5 metri. Sulla strada pedonale adiacente sono presenti piccoli negozi, una scuola e un parco gioco per i piccoli. Si trovano nel quartiere di Black, in prossimità del vecchio porto e a pochi passi dallo splendido mercato coperto di recente costruzione. Il Black Boss, ovvero il bosco di Black, ospita anche un museo dedicato al progetto, dove i visitatori impareranno come si vive all'interno di una casa cubica. Ma ora è venuto il momento di tornare alla 2ª semifinale, perché è il turno di Guillaume Stiers e della Svizzera. Samasumone Paul vide dans ma tête. Pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines. Le moment de grandir, ne pas te retenir. Je vois derrière nous des morceaux de toi. Se voi pensate che questa canzone sia triste, sia opprimente, sia depressiva, aspettate di vedere il video. Nel video, che sembra una pubblicità per la guida sicura, John Stiers è al volante di un'automobile che sfreccia per i tornanti delle montagne elvetiche. E lui vede, si perde nell'universo, vede nebulose, vede uno spazio, è un po' una scena finale di 2001 Odissea nello spazio. Poi alla fine si scopre che la macchina si è capottata, Guion Stiers d'altra parte guidava senza cinture di sicurezza, e il corpo di Guion Stiers viene osservato da un altro Guion Stiers che lo guarda da fuori. È assolutamente la cosa più deprimente che io abbia mai visto in 15 anni che io seguo l'Eurovision. Guion Stiers ha scelto il nome in omaggio al nonno che portava il suo stesso nome e che si commosse quando bambino lo sentì cantare una canzone di Elvis Presley. Pensate, se invece di essere di origine kosovara era di origine molisana, si poteva chiamare Le Lacrime di Tonino. Non sarebbe bello? Che abbiamo adesso per la Svizzera? Partecipa Le Lacrime di Tonino. O Le Lacrime di Totò. No, si chiama Le Lacrime di Guion, perché il nonno si è commosso. È una delle canzoni più deprimenti. Io penso che c'era una canzone in Ungheria nell'anteguerra, si chiamava Gloomy Sunday, e si diceva che fosse una canzone che induceva a gesti estremi gli ascoltatori che l'ascoltavano. E credo che questa tutto l'universo scritta dagli stessi autori delle mie canzoni preferite dell'Eurovision, che è Arcade di Duncan Lawrence, vincitrice del 2019, il motivo per il quale siamo in Olanda, induce appunto a gesti estremi. Quindi mi raccomando, fate attenzione quando ascoltate questa canzone, mettete le cinture, soprattutto quando guidate in macchina. È tra le favorite per vincere. D'altra parte, dopo i danni che ha fatto Arcade di Duncan Lawrence, non si vede perché non potrebbe ripetersi anche Guion Stiers con tutto l'universo, l'allegrissimo svizzero che partecipa a Eurovision 2021 nella seconda semifinale. Signore e signori, mi raccomando, allegria! Avete solo ascoltato una deprimente canzone svizzera dal titolo Tout l'univers, tutto l'universo. Il ritorno del francese dopo 11 anni. L'ultima volta andò fuori con ignominia, si chiamava Il Piove dell'Oro, Piove dell'Oro. Però l'ultima volta che ha vinto la Svizzera era stata anche con una canzone in francese, la cantava Céline Dion nel 1988. Le prove a Rotterdam sono iniziate, nel frattempo i primi paesi stanno già provando, e noi invece torniamo domani per concludere la carrellata delle canzoni della seconda semifinale in vista dell'appuntamento del 18, 20 e 22 maggio. Domani sarà il turno della Danimarca.